Ma qualcuno la fa sentire la propria voce. E poi ci sono anche delle belle storie, perché ad esempio a me il sindaco di Gudo Visconti, l'altra sera, o Vermezzo, non mi ricordo se Gudo Visconti, di Gudo. Gudo, Ah sì, Omar Cirulli, ha fatto a fianco all'ingegner Castoldi, lui ha detto io sono un dipendente della BCS. Ma non me ne frega, io sono contro la strada perché io faccio quello che mi dice la mia comunità, cioè non me ne frega, cioè, sei il mio padrone, ma io no, faccio l'interesse della comunità, no? Non era, cioè, una cosa, no? Dove lì appunto c'hai i sindacati che sono a favore I della sindacati che strada. sono a favore e raccolgono le firme insieme al padrone della fabbrica, no? Ma che terreni hai espropriato tu Ah sì, al Castoldi. questa è una storia bella, è una storia bella questo racconto, è esproprio, è esproprio. Il nostro quartiere. No, vabbè, voi non so se avete presente Cassinetta Abbiategrasso, c'erano ormai da sì, una decina d'anni in corso delle trattative per fare una pista ciclabile che da Cassinetta arrivasse ad Abbiategrasso. Vabbè, poi dopo il comune di Abbiategrasso, come al solito, si è tirato indietro. Noi però avevamo, prima di finire i miei 10 anni di sindaco, volevo fare la pista ciclabile, il pezzo che competeva a Cassinetta di Lugagnano. Vabbè, quindi noi abbiamo iniziato, abbiamo fatto la cosa. E i terreni dove passa la pista ciclabile erano anzi dell'ingegner Castoldi, della BCS. E quindi le abbiamo, sì, 8 metri, quanti sono? 8 metri per. L'ho chiamato un giorno, perché comunque l'ho chiamato, e ho detto: guardi, che noi dobbiamo fare l'esproprio, facciamo l'esproprio. Ah no, ma qua, là, su, giù. Vabbè, però se mi fa costruire. Ho detto: no, io faccio l'esproprio e non le faccio costruire. Ah, quindi noi prendiamo l'esproprio. Ho fatto vedere la cosa dei comuni virtuosi che avevano vinto, avevano appena vinto Ah, un il premio dei bando. comuni virtuosi Perché per. il nostro sindaco aveva potuto fare l'esproprio, E certo, ha ragione. funziona. Per la pubblica utilità l'esproprio è previsto dal. Abbiamo anche dato pochi soldi. Perché valore. E quindi sì, si era un po' arrabbiato. Quale sono soddisfazioni? Lui era preoccupato che se diventavo sindaco di Abbiategrasso mi faceva l'altro pezzo. Facevamo il. Vabbè, però comunque a proposito di esproprio, no, che poi dopo ci hanno messo in un recinto, ma in realtà se noi pensiamo a che cos'è stata la riforma agraria del dopoguerra, no, alla fine è stata un'operazione, un grande esproprio per dare la terra ai contadini sulla base di un progetto di ridistribuzione delle terre. Per dare l'unità minima per la famiglia, cioè mio nonno ha avuto la terra nel dopoguerra, le ha dato un ettaro, anzi meno di un ettaro, il cavallo, la sella e l'aratro, il casottino, la Infatti casotta. sul discorso dell'agricoltura c'è bisogno di una nuova riforma Ci vuole una agraria, nuova non riforma c'è, agraria. cioè l'ultima riforma agraria è questa È qua, del dopoguerra, cioè ma non se voi c'è. fate un giro tra la Basilicata, la Puglia, ci sono centinaia di cascine, casotte come le chiamano giù, abbandonate completamente, no? Che potrebbero essere da un lato recuperate e anche ricrei un paesaggio e una presenza sul territorio, cambiando modello, passando dalla monocultura alla filiera diretta per i territori, cambiando comunque completamente rispetto a quello che è tutto in mano. Comunque delle grandi cioè hanno accumulato terra. E anche rispetto a questa cosa c'è una forza, un movimento che sta crescendo in Italia, fatto soprattutto di giovani, che noi stiamo incontrando, nel senso comunque nel lavoro con la terra trema siamo partiti a lavorare con quello che è l'agricoltura tradizionale o comunque con agricoltori tradizionali in qualche modo diventati virtuosi perché sono bravi, perché fanno una produzione unica, specifica. In Italia abbiamo degli agricoltori, dei produttori che sono veramente unici per il prodotto che fanno, per il lavoro che fanno, per la storia che hanno, cioè aziende che hanno una storia. Però in questi ultimi anni sono veramente a centinaia le persone che in qualche modo, e tutto viene fatto con i loro mezzi. Sono ragazzi giovani disoccupati che pigliano e se ne vanno in campagna, gente che sta occupando la terra, perché non se ne parla, però cioè, in qualche modo c'è qualcuno che comunque piglia terreni demaniali piuttosto che incolti, e ci sono queste esperienze, però non c'è una legislazione, non c'è una volontà di mettere in condizione questo tipo di esperienze di essere qualcosa che è valorizzato. Andrebbe fatta una legge, non c'è nessuna. Così, quante terre abbandonate ci sono in Italia? Sì, sì, sì. Cioè, terre anche qua, sì. Terre abbandonate, non coltivate. Che... Il 12 ottobre, no? Avevano quelli di Mondeggi, hanno occupato 200 ettari di terra. Questa esperienza a Mondeggi in Toscana sono 200 ettari, non è. In Toscana, in Umbria. In Umbria, erano occupati 200 ettari. Solo che, tornando al discorso di prima, stanno iniziando chiaramente un'esperienza embrionale, cioè comunque, però voglio dire, cioè, per quanto riguarda noi, se lo guardo col mio sguardo, nel senso, cioè, voglio dire, una volta c'erano le aree dismesse, sono ancora un patrimonio, però appunto basta allargare, seguendo il principio del professor Maddalena, cioè è abbastanza evocativo, è quell'immaginario che è diverso da, poi chiaro, insomma, si fa quel che si può, però insomma ci sono delle spinte interessanti. Sì, comunque le forme di repressione, ad ogni modo, come violente come sono per la TAV, si mutano poi, come anche noi abbiamo una forma di repressione, no? Certo. Vedi che ti tengono a farti sparire, tengono a... è una forma di repressione pesante che infastidisce, perché sono varie le forme di repressione che non permettono fatica di esporre quello che vuoi, una realtà diversa. Quindi bisogna fare qualcosa. Bisogna fare qualcosa, sì. Strappare il diario di Eugenio. Il diario di Eugenio, scusami, generalmente il diario che va sovvenzionato. Sì. Io ho subentrato tre anni fa parte di un diario con qualche cosa, l'anno scorso non so se era il gioco d'azzardo che anche lì hanno sovvenzionato, e allora è stato sovvenzionato dai commercianti, probabilmente vuol dire che i commercianti sì, a favore, come certo, i nostri che vanno con i ex possibili, anche lì, capisci? Cioè, per me Expo doveva arrivare qua, cioè le famose parrucchiette dovevano venire qua a vedersele, non portarle, certo, in piazza, sì, Castello. Chiaro, sei sulla via dell'acqua, vieni qui se vuoi vedere qualcosa di vero, no? Non te le porto io, però questa è anche una politica malsana che hanno fatto, che hanno comunque preparazione all'estero, a tutta la delinquenza. Poi c'è cascato anche, cioè, Gesù per bisogno, oppure circondato, perché chi ha messo i contatti per portare, cioè, a uno che lavora la terra con fatica alle 6 del mattino, tutte sterminate, chiaramente, eccetera, eccetera, chi gli ha detto di andare a portare le pannocchiette in piazza Castello? Quando dovevi lottare, gli architetti che hanno fatto l'Expo Gate, cioè, hanno contattato una serie di agricoltori del territorio, sì, fino a quando non hanno trovato, sì, quello, capisci, che gli ha detto che. Allora, anche lì, discorso di stare uniti, no, voi venite nella nostra terra se volete, perché andiamo ma quello rientra, cioè, sì, quello può, davi una risposta diversa, no? E poi aveva più senso, ma poi era tutto gratis, perché c'è la terra, c'è la via dell'acqua, c'hai tutto, certo, per fare, aveva più senso. Vabbè, invece fanno la via d'acqua a Milano e le pannocchie le coltivano nei cassoni in piazza Castello. Cioè, che cazzo serviamo, no? Qua fanno la tangenziale. Che certo. Però insomma. Comunque, vabbè, io di là, cioè, piccole cose che si possono fare, cioè, io l'ho detto, cioè, l'11 c'è questo corteo No Expo a Milano, secondo me ha senso che ci sia, cioè, che il movimento no tangenziale per la difesa del Pagianuz ci sia. Vuoi per mettersi in connessione, vuoi per, non lo so, però, non so che cosa possa servire, però il 12 ci saranno anche dei momenti di discussione a Rima Flo rispetto alla sovranità alimentare, ci saranno anche via Campesina, ci saremo noi, ci saranno i mondeggi, questi che hanno occupato questi famosi 200 ettari, quindi non lo so, insomma, si continua a fare quello che... Però sicuramente rispetto al territorio è un po'... C'è l'intervento... Vai, scusa. Devo fare una domanda, un po' tecniche. Prima era un po' in tutte le varie proposte di legge che sono state presentate per contro il suolo. Volevo chiederti se potevi aggiornare rispetto allo stato della discussione delle commissioni parlamentari o se quali sono le intenzioni rispetto a questo tema dal punto di vista del governo. E la seconda domanda è relativa alla... a quanto fatto da alcune amministrazioni comunali che avevo cercato di seguire, però il tema del cambiamento di destinazione d'uso di aree già destinate a edificazione, che magari cambiando l'amministrazione maggioranza c'è il tentativo di sottrarre destinazioni d'uso volumetrie e magari riportando addirittura a verde aree meno edificabili, no? Da questo punto di vista volevo capire se hai notizia di come sono messe situazioni di questo tipo dal punto di vista dei corsi, dei proprietari e se questa è una strada che può essere battuta, insomma. Allora, rispetto alle proposte di legge che ci sono in Parlamento, ce ne sono da parte di tutti i partiti. Da Movimento 5 Stelle a SEL, pure Forza Italia, il PDL aveva presentato una proposta di legge contro il consumo di suolo, quindi sì, con l'introduzione con i versi di Andrea Zanzotto, il poeta veneto morto qualche anno fa. Una volta avevo paura, avevo il terrore dei campi di sterminio, adesso ho paura dello sterminio dei campi. Quindi anche il PDL con questo, ha incannato nella relazione perché aveva ammesso che era ancora vivo, sto poeta invece era morto. No, però vabbè, l'obiettivo era... E quindi più o meno tutti hanno messo una proposta di legge incardinata nelle commissioni, però nessuna di queste proposte di legge, anche la migliore secondo me è quella del Movimento 5 Stelle, però nessuna... punta all'azzeramento del consumo di suolo, cioè nessuna dice basta, da domani non si... la moratoria il consumo di suolo non l'ha messa nessuno, tutte prevedono comunque il principio della monetizzazione, quindi se hai soldi puoi consumare, mi versi più oneri di urbanizzazione, me lo fai, no? Quindi per questo motivo abbiamo deciso all'assemblea che abbiamo fatto sabato scorso, due sabati fa, proprio al lago Ex Nia a Roma, partiremo con una proposta di legge di iniziativa popolare che scriverà Paolo Maddalena, che sarà molto semplice, schematica e che va in quella direzione, no? Quindi anche nel senso della proprietà collettiva, mettere prima l'interesse di tutti rispetto agli altri, quindi che va anche un po' a rielaborare e attualizzare quello che è tutta l'elaborazione del professor Maddalena. Su il cambio di destinazione d'uso ci sono un paio di sentenze del Consiglio di Stato, una riguarda il comune di Monteroni di Lecce, l'altra il comune di Perugia, che praticamente affermano un principio che è in linea con quello che abbiamo detto stasera, ovvero che cosa fare di un territorio spetta a chi ha la sovranità su quel territorio, cioè ai cittadini, alla comunità, al popolo e quindi al Consiglio Comunale. Queste due sentenze del Consiglio di Stato ribaltano il giudizio che aveva dato il TAR rispetto alla decisione che i due comuni avevano dato di ripristino della destinazione agricola rispetto ad una destinazione residenziale o commerciale che era stata data appunto dal piano regolatore dei comuni. Quindi avevano deciso di tornare indietro, il proprietario aveva fatto ricorso, al TAR aveva vinto, al Consiglio di Stato invece ha perso. E il Consiglio di Stato ha dichiarato sostanzialmente la massima della sentenza, dice che se una porzione di territorio non ha mai avuto vocazione edificatoria, non è mai stata, era un campo, è sempre stato un campo, non ha mai avuto una presenza di un immobile, di una, la comunità che governa quel territorio, quindi il Consiglio Comunale, ha il diritto di ripristinare la destinazione agricola, quella che più seguendo quello che ritengono la comunità stessa il giusto utilizzo di quella, la giusta destinazione d'uso, no? Quindi sancendo un principio fondamentale che è sempre stato, no? Perché comunque ci hanno riempito la testa che sono i diritti acquisiti, non si può tornare indietro, tutte queste cose, invece non è così. No, ci sono sempre state delle elaborazioni di urbanisti che dicevano che non era così in base alla legge, però non c'erano mai state delle sentenze chiare come quelle che ci sono state nel 2013, proprio sono fresche. E quindi adesso magari speriamo che altri comuni tornino indietro. Tra l'altro ci sono un sacco di proprietari terrieri che chiedono di tornare alla destinazione agricola perché ormai la bolla immobiliare è esplosa, no? E non gliele fanno tornare perché altrimenti i comuni incassano meno IMU, meno tasse, no? Non hanno magari le risorse per fare infrastrutture che avevano previsto appunto da finanziare con le lottizzazioni. Devo fare un'autostrada, una strada, una circonvallazione, faccio il piano regolatore, prevedo che tutti i terreni siano edificabili, così anche se non ho i soldi metto nel bilancio finanziario quello che incasso come onere di urbanizzazione e faccio la strada. Quindi se io poi dopo voglio, io proprietario, voglio tornare alla destinazione originale, il comune non me lo fa perché altrimenti ricrolla tutto il castello.